Ma questa vita cos'è senza il profumo di te? Io mi travesto da me e non mi riconosci più, perché ho troppi ma, troppi se. Non è più tempo ormai, ma c'è questo richiamo che mi trascina dentro un vortice con te, contro di te. E sono piccole musiche, tante piccole musiche, sono fatte di piccoli sospiri da mettere. E sono piccole musiche, solo piccole musiche, il vento getta tra le case insieme alle sue fantasie. Africa e di jazz, e tutto suona come se ci fosse un buco nel mio cuore che chiama di te e di me. Non è più tempo ormai, ma c'è questo richiamo che mi trascina dentro un vortice con te, contro di te. Sono piccole musiche, tante piccole musiche, sono fatte di piccoli sospiri da mettere. E sono piccole musiche, solo piccole musiche, che il vento getta tra le case insieme alle sue fantasie.